ansioso già mi vedi di seguire I tuoi passi. Suoni la tromba pur, varassi al campo. Trecci, terrestre! Che vengo, Arminta tubi, in questo campo a te restar non lige. Il Rinaldo che dice? Udisti, credimi o cara, non esegno o disprezzo. Tu compensi